signore. Alli col braccio, alli col seno, la romana fortuna, di la spagia in mia fido le palme. E quel giorno sereno, onde le sfere girano i glanni tuoi, lietta Gioconda. Oggi nascesti, oggi rinasci, et oggi a te pubblico ben, pubblica vita, annuncia animo tali dei tuoi popoli cielo, ed i femmini voti arrivino in cielo. Thank you. Thank you. di quella luce, lo feconda e nasce l'orto, lo feconda, e nasce l'orto, e nasce l'orto. Lo feconda e nasce l'orto, nasce l'orto. Tu ci vieni, Roma! braccio mio tosto si scopra. Il traditor son io quel reo felon, li colpi altrui colpevole mi fanno, il so mi accusa dell'accuse la tema. All'empia donna il riprovero io bontà, e a vendicar la sollecita diadema, implora in trono. Ma che non tace le minacce all'ire di Dio e a cara voce? Il soglio anche se siano sordo, odio le colpe. Temo un libero ardire, l'odio dei grandi. Mi può solo atterrir quello del nome. Che trir tutta la scura diventa. Sì, quando la sostiene destra tiranna. Che talabro plebeo legge regnanti. Sì, sin labro plebeo. Avella il Dio. Là non più da nostri sdegni il nesso ti serva una pietà che non conosco, ma che più ti fare se più n'abusi pronta e lenta discussi. Or va, mi intendi, a me usar della tua sorte apprendi. Wow. Thank you. non tacerà. La mia caduta io vedo in quel tarlo crudel che il cor mi rode, ma non si teme. Erode, Filippo, il tuo germano vive, tu sai. Il tuo nico, la moglie adesso in voli. Tu così di conchiato di marito i due nomi, i due gradi un confondi. Ammutisci, a signor parla, rispondi. Minacciar la pena. Tu, mio giudice, a un relice che piace. Il tuo giudice è Dio, vuole che piaccia anche al desio del re, sol ciò che dice. Mm. Thank you. guarda ferma. Togli gli occhi miei, quel mostro indegno. Qui venga ronte, uccel che mai risolvo. A Filippo German, rendi la moglie. Pensier che fo che per occhi dell'alma. Ecco già piomba il folgore mortale di in braccio. Spirito di giusto.